con Paola San Giovanni, regista del documentario La Linea Sottile. Paola, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie. Allora, diciamo l'argomento del tuo lavoro per chi ci ascolta. Sì, l'argomento, dunque, prima di tutto io non sono l'unica regista, perché appunto ho diretto il film insieme a Nina Minza. Sì. E sono due storie che si intrecciano, due narrazioni che riguardano due guerre dei primi anni 90 da due diversi punti di vista. C'è la storia di una donna bosniaca che è sopravvissuta alle violenze dei paramilitari serbi nella guerra della ex Jugoslavia, la Kira, e la storia di Michele, che è un ex soldato italiano di una missione internazionale di pace in Somalia, e che appunto, diciamo, racconta, apparteneva ad un contingente che si è reso responsabile anche di violenze indiscriminate contro i civili. Quindi diciamo che è come dire, un film sulla guerra, sulla genesi del male, ecco, e la consapevolezza appunto del male e della capacità tutta umana di generarlo. Senti, come nasce questo film? Diciamo, l'idea originaria è stata di Augusta Emenghi, che è la coproduttrice del film e che insieme a me e a Nina è anche la coautrice del soggetto. Lei ci ha proposto di riflettere, di costruire una storia, una ricerca originariamente sul tema della guerra, in modo particolare della violenza contro le donne in contesti di guerra. Sì. Poi naturalmente il film si è evoluto, si è arricchito, abbiamo trovato appunto questa formula di due storie, anche di due punti di vista molto diversi, perché naturalmente l'aver scelto anche un uomo come coprotagonista del film, un ex soldato che appunto si è reso responsabile anche di violenza in realtà nei confronti di una popolazione che avrebbero soltanto dovuto proteggere, ci ha dato la possibilità anche di vedere questo argomento, come dire, seguendo l'iter di una genesi proprio della violenza, ecco, a partire proprio da questo allenamento alla violenza avvenuto durante l'allenamento in caserma, ecco, sì, ben prima di arrivare in un contesto di guerra. Sì. Quindi ci è sembrato particolarmente stimolante, ecco, questo accostamento di due persone, di due protagonisti così diversi, ma che hanno evidentemente nella loro esperienza delle cose anche molto profondamente in comune. Senti Paola, in fase di scrittura su cosa vi siete documentate per la sceneggiatura? Siamo partite da questa idea, ma c'era anche la necessità veramente molto profonda di vedere da un punto di vista proprio della genesi della violenza maschile, per cui io molto presto, e di che cosa significa, di che cosa è potuto significare, perché quando si parla di violenza contro le donne generalmente si parla esclusivamente di donne, che è una cosa dal nostro punto di vista abbastanza paradossale, no? Sì. Quindi diciamo che noi abbiamo visto questo contesto della guerra anche come una situazione estrema anche, ma in cui si mettono in gioco degli elementi che fanno parte della nostra cultura. Sì. Quindi noi siamo partiti, diciamo, da queste considerazioni, adesso ve lo dico molto in sintesi. Sì, sì, sì. E poi io ho proposto appunto che questo tema fosse declinato anche attraverso la scelta di un uomo e di un soldato. E poi appunto in modo particolare facendo le ricerche ci siamo anche ricordate di questa nostra missione particolarmente problematica che è avvenuta appunto nella prima metà degli anni 90 in Somalia, questa missione di pace, e ci siamo ricordate appunto dello scandalo nato qualche anno dopo, quando appunto Panorama ha pubblicato delle foto di torture da parte di questi giovanissimi soldati italiani. Sì. E quindi diciamo io mi sono concentrata su questa ricerca, mi sono concentrata naturalmente a trovare, cosa che non era per niente semplice, trovare quello che poi è diventato il protagonista, naturalmente facendo tanti incontri, tante interviste, eccetera. Nina Minitsa invece si è concentrata di più naturalmente su un'esperienza che è vicina alla sua storia, perché lei è appunto è croata, anche se per fortuna negli anni della guerra era in Italia perché ha studiato regia al centro sperimentale, ma naturalmente quello è tutto un contesto che lei sente molto vicino, per cui abbastanza presto si è focalizzata sulla proposta di questa protagonista. Quindi abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato divise e poi abbiamo lavorato di nuovo insieme, costruendo ovviamente piano piano il film, anche a seconda del grado, come dire, di profondità della relazione che ognuna di noi intesseva con il proprio protagonista. Sì, sì. E poi abbiamo fatto, ecco, tutta la post-produzione insieme, che è avvenuta in Italia, e la montatrice è Ilaria Fraioli, con la quale io avevo già lavorato in un documentario che si intitola Sassette, e anche quella, insomma, è stata sicuramente una cosa non facile, e quindi, ecco, Ilaria è stata molto molto intelligente e capace, ecco, sì, di aiutarci a trovare insieme un equilibrio tra queste due storie così anche dolorose, difficili, ecco, che sono, ecco, molto purtroppo scottanti anche nel presente. Sì. Per saperne di più, comunque, ho visto che c'è anche una pagina Facebook della Linea Sottile. Sì, c'è una pagina Facebook e c'è anche appunto il sito della Berta Film, la distribuzione del film. Bene. Paola, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo e grazie. A risentirci presto. Ciao Paola. Sei il lupo. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Ciao Paola. Paola San Giovanni, co-regista del documentario La Linea Sottile.